mille stelle si accendono in un cielo più limpido. Questa notte d'inverno ha qualcosa in più e sarai certamente tu. Mentre mordo il tuo naso in su, mi sussurri qualcosa e poi ti accendi. Vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola. Prima in alto, poi più in basso, dolcemente apri le tue ali e vola su foreste mai scoperte. Vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola. Fermati sulle colline, cogli un fiore, poi scendendo cerca un posto dove possa crescere e fiorire come il nostro amore. E mi trovo a pensare se ti ricorderai o no di me, se domani ti fermerai, ma intanto vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola. Cresce l'emozione nella fredda sensazione del tuo primo volo, lentamente, dolcemente. Vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola. Stringi forte le mie mani, chiudi gli occhi, se sei stanca cerca un posto dove riposare per poi ripartire via con il vento dove lui ci porterà. Noi troppo avanti per fermarsi adesso, via sempre in alto finché il cuore impazzirà. Poi piano piano scenderemo ancora qua. Mille stelle ci guardano, poi con noi si addormentano. Questa notte d'inverno ha qualcosa in più. Vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola. Prima in alto, poi più in basso, dolcemente apri le tue ali e vola lentamente, dolcemente. Vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola. Stringi forte le mie mani, chiudi gli occhi, se sei stanca cerca un posto dove riposare per poi ripartire